Il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sì, no, no, non mi interessa. Perché Come mai? non mi interessa Cruciani né quello che dice. Non Se era posso. lei un'intervistina così volante, sì. Non voglio neanche definire chi è quella persona. Non rientra nel mio schema mentale un giornalista così. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Al tappone, che adesso si è alleato con me, mi vuole distruggere facendomi complimenti, cazzo c'è da toccarsi con io, perché ha detto il PD vuole distruggere me e Grillo, cazzo, ci accomuna nel senso della distruzione, adesso ci manca che parla bene di me, siamo rovinati. Allora, lui deve sapere chiaro attraverso le televisioni che noi lo vogliamo mandare via, in galera non ci interessa, basta che lascia lì il suo codice fiscale, vediamo quanto lui e il suo partito hanno derubato a questo paese, lascia lì un assegno e può andare a fare il culo con l'elicottero, non vogliamo galere, perché Berlusconi in galera ci costerebbe 500 euro al giorno se si porta lì le veline, allora. Siamo qui, è sempre uno straordinario comico, caro Parenzo, è sempre uno straordinario comico. Buonasera, signor Cruciani, buonasera a lei, ai radioascoltatori della Zanzara di Radio 24. Perché parli così piano? Cambia registro, è una fase di riflessione in cui c'è bisogno di pensieri non forti, ma di pensieri, come dire, concilianti, che sappiano mettere insieme il paese anziché dividere. Calma, Grillo, tranquillità, serenità. Appunto, con calma, senza aggressività. Intanto oggi Grillo ha detto Gabanelli non del tutto libera e sull'euro referendum tra un anno. Quante puttanate! Scusa, la moderazione è andata colpa per quel paese. Grillo sulla fidanzata di Franceschini continua la polemica. Basta, io non ne posso più di queste cose. Senti, no, ma non mandiamo più questo. Sì, evitiamo Grillo di mandare queste fidanzata. Polemiche. Sono, è una polemica. Diciamo la verità, se ci fosse stato un politico, no? Un politico di centrodestra dall'altra parte che raccomandava la fidanzata. No, non la raccomandava, questo è un errore. Non la raccomandava. Faccio sentire quest'audio e poi abbiamo Grillo, tempo, Grillo. Comunque abbiamo tempo. Ma io e te ci conosciamo, siamo stati anche fidanzati da piccoli. Ma è vero? Sono così vecchia? No, no, no, stai uguale, ma sei un altro colore, ma sei tu. No, ma che meraviglia, scusate. Questo è Grillo che incrocia la sua ex fidanzata. Poi ha fatto polemica anche sulla fidanzata di Franceschini, come sapete, Allergico a tutte le prediche. Poi ha detto veramente una puttanata. Al governo c'è chi ha ucciso Falcone e Borsellino. Tutto questo ieri a Sestri Davanti, a Imola. Al governo chi ha ucciso Falcone e Borsellino. Cioè, non ho hai capito bene? Cioè, secondo Grillo, al governo adesso. Ci sarebbero i mandanti della strage di Capaci e di chi Via D'Amelio. Chi ha ucciso Falcone e Borsellino? Faccia i nomi. Ma noi abbiamo ancora questa gente al governo! Abbiamo ancora la gente che ha ucciso Falcone e Borsellino al governo! Abbiamo ancora questa gente qua! Allora, sta spopolando su internet il video di un deputato leghista che si chiama Sibilia. Sibilia. Sì, il quale deputato, non leghista, deputato dei 5 Stelle, scusate, che leghista. Sibilia. Ma spesso i leghisti la pensano come lui, alcuni leghisti, Sibilia, il quale parla ancora di Bilderberg. Del club Bilderberg. Di Letta. Anche Borghezio parlava sempre del club Bilderberg. Come no, certo. Sentitelo, sta spopolando Sibilia. Ha mai sentito parlare di signoraggio bancario, signor Letta? Ne parlate mai alle riunioni del Club Bilderberg? Club di cui lei, il suo predecessore Mario Monti, Emma Bonino, guarda caso ministro degli affari esteri, e Mario Draghi, guarda caso direttore della Banca Centrale Europea, fate parte. Il grande complotto, la Bonino, Letta, Mario Draghi, tutti nel Bilderberg contro l'Italia, secondo Sibilia. Ma lo Sibilia dica, o Sibilla? Sibilia, Sibilia. Ah. Lo dica, signor Letta, a Van Rompuy. Dica questo al presidente Van Rompuy. E poi chi è questo Van Rompuy? Chi lo ha eletto? Io so che lei, signor Letta, lo conosce, perché anche egli, guarda caso, è parte del Club Bilderberg. Vabbè, ma siamo al complottismo puro in Parlamento, è meraviglioso. Sempre questo Sibilia dice: siete un servile scendiletto dei banchieri. Lo sappiamo che lei non dirà mai nulla di tutto questo a Van Rompuy, ma non per una questione di coraggio, perché quello forse, se è lì dov'è, non le manca, ma perché da oltre 15 anni l'Italia che avete costruito voi partiti PD e PDL, ormai modello unico, è diventata un servile scendiletto dei banchieri di tutta Europa. Questa l'analisi di un deputato del Movimento 5 Stelle. C'è Mario Borghezio che dice che vuole invitare, Borghezio vuole invitare il ministro Chieng, o come diavolo si chiama il ministro, a cena, Adesso ha cambiato, dopo quello che ha detto, ha cambiato. Dice anche che non, in realtà non ha niente di, non deve chiedere scusa perché non ha mai detto la parola negra. La invito a cena, ma sempre negra rimane. Dice, ma scusa, perché... Se ci sarà occasione, quindi, di una chiarificazione e anche di un incontro, io non esiterei certamente a stringere la mano a questo ministro, ed eventualmente se volesse essere presente, se viene qui a Strasburgo, potrei anche invitarla a cena. Non ci sarebbero problemi da parte mia, perché io non sono nazista. Stamattina Radio Padania hanno mandato una meravigliosa Borghezio Beat. Ah, ottimo. Una compilation di Borghezio. Una nostra idea, signor Cruciani, però quella è sempre stata. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. È con noi un deputato del PDL, che nome, caro Parenzo, sì, sì, che propone una legge per punire anche col carcere chi disturba le manifestazioni. No! Sì. Cioè, legittimo impedimento, ma che c'entra no, adesso? No, voglio dire, falso. Onorevole bilancio. Abrignani, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori che l'ascoltano. Abrignani, come sta? Abbracciare fortissimo, veramente. Lei è un genio. È un genio. Lei è un genio. È stato il capo, ma è lo stesso Abrignani che è il capo di segreteria di Scajola. Come no, certo. Ma lei è ancora scajoliano, signor Abrignani? Beh, gli affetti personali non si dimenticano mai, insomma. Ecco, come si fa a essere scaglioliani? Ecco, sì, questa è una domanda che mi sono posta. Sì. Beh, guardi, le spiego. Anche lei ha acquistato una casa a sua insaputa? No, assolutamente no. Io semplicemente sono responsabile elettorale del partito, per cui lavoro con i coordinatori nazionali. Sì. Dal 96 venne nominato Scajola e per 10 anni abbiamo lavorato insieme. Per cui è nato un rapporto anche personale, certo, di affetto, nonché di stima. Di affetto anche, di affetto, certo. Scusi, signor Abrignani, perché lei vuole fare una legge nuova? Che bisogno c'è? Abbiamo tante leggi in Italia, allora, già. Perché? No, ma soprattutto con tutte le leggi che avete modificato per salvare i processi. Però, scusi, ma questo è un altro argomento. Allora, una legge si fa quando c'è un buco, no? Sì. E che buco c'è? C'è questo buco. Lei sa che l'articolo 17 della Costituzione prevede, sì, la tutela di chi vuole riunirsi liberamente, cioè, certo, chi vuole, vabbè, manifestare. E quello lo sappiamo. Se io voglio, sì, fare una manifestazione a Fuori dei Marò, sì, chiedo autorizzazione, organizzo le presenze, sì, prendo una piazza e voglio svolgere la manifestazione. E fin qui siamo d'accordo. E dov'è il problema? Debba essere tutelata. Però che succede? Che se magari arrivano 100 persone con i megafoni unicamente per impedirmi di fare... Ma chi dovrebbe arrivare, scusi? 100 persone per impedire... Lei ha visto... Mi faccia un esempio. No, ma mi faccia un esempio. Manifestazione sui Marò. Manifestazione sui Marò. Chi potrebbe arrivare? Arriva qualche pacifista. Potrebbero arrivare gli indiani, magari, che ne so. Come gli indiani? Ah, lei potrebbero arrivare, lei dice, esatto, degli indiani a manifestare. Allora? Allora, se non mi sono spiegato, se uno vuol manifestare, è libero di manifestare, sì, è proprio lo scopo della mia legge. La mia legge vuole tutelare tutti quelli che vogliono manifestare. Io voglio semplicemente colpire quelli che impediscono le manifestazioni. Ma chi impedisce? No, ma materialmente, ha ragione, signor Cruciani, però signora Abrignani. Però voglio anche fare una precisazione. Questo tipo di reato già esiste nel codice. Appunto. E allora? Tanto, e per un inspiegabile motivo tutela unicamente le elezioni politiche. Cioè, se durante una manifestazione per elezioni politiche io faccio, diciamo, una turbativa, impedisco, bocciando quella manifestazione, dice però a Brignani, se a Brignani lo faccio per le amministrative o qualsiasi altro tipo di, ma non è a Brignani, scusi un attimo, se lei indice una manifestazione per i Marò, arrivano 200 indiani, come dice lei, no? Che cercano di impedire questa manifestazione, impedire, diranno i loro o comunque slogan, che violentemente cercano di impedire una manifestazione. Vabbè, ci sono leggi, le leggi che tutelano una manifestazione. Allora, soltanto se ci sono degli estremi atti di violenza, ma se vengono con i megafoni e cominciano con i megafoni, qual è il problema? È la, il bello della piazza, no? Unicamente per impedire la mia manifestazione. Ma chi se ne, ma scusi, ma voglio, mi faccia capire, c'è una manifestazione ad esempio a favore della pace. Io faccio una contro della pace in Medio Oriente, no? Una con le bandiere, con le bandiere colorate, tutti in piazza, pace, pace. A un certo punto arriva invece un gruppo con Edward Luttwak che dice no pace, guerra. E dov'è il problema? Invece c'è qualche megafono, e dov'è il problema? Se è autorizzata la manifestazione. Se è autorizzata, dov'è il problema? È la piazza. No, appunto. Appunto, il problema è che quella manifestazione sicuramente non potrebbe essere autorizzata, ma verrebbero a inserirsi in una manifestazione autorizzata. Ma ci sono già le leggi, ma le leggi ci sono già, Brignanino mio Brignanino. Assolutamente, ma ci sono troppe leggi a Brignani, ci sono troppe leggi in Italia, questo è il problema. Ma le leggi vanno fatte quando ci hanno bisogno, e obiettivamente. Ma lei prevede il carcere? C'è il carcere per chi contesta le manifestazioni? Da 1 a 3 anni, assolutamente. Ma come? Beh, è giusto, ha ragione, da 1 a 3 anni, se uno va lì con un è lo stesso reato che è previsto oggi per chi turba le violazioni, le manifestazioni alle elezioni politiche. Allora dico, ma chi è l'idea? Di chi è l'idea? Chi è il genio? Chi è il genio? Allora, la legge sulle elezioni politiche c'è da circa 12 no, anni. No, di questa e nuova legge, chi è che ha inventato, si è messo in testa di fare questa nuova legge? Dopo aver visto quello che è successo a Brescia, quello che è successo a Udine, in cui hanno impedito al nostro presidente. Ma chi è venuta l'idea? In maniera tranquilla le nostre manifestazioni, sicuramente diciamo è venuta a noi, al nostro gruppo. Ma in particolare a chi? A lei. Mi prendo io, ma guardi, è un discorso di carattere generale, perché noi vogliamo semplicemente tutelare la libertà delle riunioni. Ma ho capito, ma c'è già la legge, già protegge chiunque voglia fare. No, ma come no? Assolutamente no. Guardi, ma la polizia può sgomberare la piazza, la polizia può sgomberare la piazza pubblica. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia la cruda verità. Perché la cittadinanza viene data un po' alla cazzo, e parliamoci chiaro, quindi questo, che uno sia diventato cittadino italiano non è che sia il timbro sulla sua, poi magari in questo caso si tratta di una bravissima persona, devo dire che l'espressione è simpatica, mi sembra una brava casalinga, ecco, la vedrei molto bene come assistente sociale di un comune di 500 abitanti, non ministro. Non ti potrò sfiorare e ti farò male, zanzare di casa. Siamo qui la zanzara, 800240024, una delle frasi incriminate avete sentito di Borghezio, che stamattina da Belpietro ha detto: ma io non ho nulla da chiedere scusa, non ho niente di cui pentirmi perché non ho detto negra. Però poi ieri si era pentito a Strasburgo durante la seduta ufficiale. Vabbè, è il Borghezio di lotta e di governo. È come quello, no, che dice sempre: io non ho usato il termine negra, non ho mai detto negro. Dice sì, però lo stai continuando a ripetere intanto. Scusi, i grillini diminuiscono, si decurtano anche i rimborsi e restituiscono la parte che non usano. Lei farà perché non fa lo stesso anche lei a Brignani? Allora, noi rendicontiamo le spese, lei sa che un parlamentare prende 5.500 euro, il resto è tutto, diciamo, relativo alle attività elettorali e la diaria, cioè che deve essere rendicontato. Oggi, ma lei spende tutto? Come? Lei spende tutto il resto al di là dei 5.500? Guardi, oggi sono nelle Marche ed è un'attività che faccio regolarmente, che sono stato eletto qui, e evidentemente quando dormo qua, mangio qua, spendo qua, è chiaro che poi... Ma com'è questo stipendio che prende? Pronto? Com'è? Una cosa degna, una cosa... Assolutamente, 5.500 euro è una cosa assolutamente decente. Tra l'altro io vorrei... Decente che vuol dire decente? Di più prenderà, dai, su. No, per l'attività che si fa è assolutamente uno stipendio che va bene. Però tra l'altro volevo dire, queste vicende dei grillini che si fanno, partono, dicono... vediamoli, cioè io vorrei vedere la prima volta un bonifico fatto da questi di restituzione, perché fino adesso i soldi del finanziamento pubblico. No, la prima rata si prende a luglio, fino a luglio loro sono solo parole, vediamo a luglio quello che va bene. Adesso questo l'hanno detto, è impossibile che non lo facciano, dai, su questo mi sembra il minimo, dai, su, sarebbe clamoroso. Vedo che c'è un po' di discussione all'interno loro, insomma, sì. Scusi Brignani, ma l'altro, per tornare a quello che dicevate voi oggi rispetto a quello signore Sibilia che diceva certe cose ieri, quando Alfano è venuto in aula, qualcuno, un signore delle 5 Stelle ha gridato in aula bombardiamolo, allora sì. Rispetto a grillo, sì, anche se è una frase discussa, non è che si riferiva, ho capito, però obiettivamente pare che non si riferisse ad Alfano, comunque sicuramente è una cosa infelice. No, e si nascono tutti da quello che poi fa Grillo e dice nelle manifestazioni in galera, quelli che hanno ucciso Borsellino. Brignani, comunque faccia una immagini una situazione tipo, cioè lei fa una manifestazione sui Marò, arrivano quanti indiani, che ne so, 200, 300, 400? Ma guardi, qualsiasi soggetto arriva che compie. No, ma gli indiani mi piace, o anche quella della pace, no? Lo diceva, la riparazione della gente che vuole per la guerra. Il problema, tra l'altro, nella Costituzione americana c'è, nella Costituzione inglese c'è, la libertà di riunione deve essere garantita e tutelata. Ho capito, ma ci sono già le leggi. Ma lei si rende conto che vuole... Ma lei si rende conto che vuole sbattere in galera semplicemente un povero disturbatore che con un megafono manda a quel paese qualcuno, ma con i reati che avete depenalizzato, ma si rende conto Brignanino mio? Ma perché quello deve venire a disturbare? Ma perché lei deve sbattere? Ma mi spiega la mia manifestazione. Ma io lo prenderei, perché lei fosse deve... per me, a Brignani, lo prenderei a calci nel sedere per come sono fatto io, uno che viene a disturbare una manifestazione. Prevedo delle sanzioni normali. Ma mi spiega perché lei del PDL vuole sbattere in galera un povero disturbatore e invece vuol salvare Berlusconi? E noi dobbiamo tutelare la libertà di riunire. Ma è più grave questo o il falso in bilancio? Scusi, è roba incredibile. Sono due cose diverse. Ma dai. Appunto. Va bene, Brignani, grazie. Ah. Grazie, buona serata. Io grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Gianluigi da Verona, buonasera. Gianluigi. Buonasera. Dica. Beh, io volevo fare un intervento relativamente al signore della cura dei porri. Ah, il mitico, fra poco lo rimandiamo in onda il signore. Immaginavo, non ci manca nulla. Sì. A me, mi scuso l'intervento perché ha colpito la reazione di Parenzo. Perché? Dopo ho collegato, perché è stata una reazione molto particolare. Di solito Parenzo ha una reazione o ironica o satirica, o comunque di parte se colpisce il suo indirizzo politico. Vabbè, allora, Gianluigi... Ma in questo caso qua, mi è venuto in mente che quando sono andato in Israele... La nostra guida ci aveva detto che per una parte della popolazione ebrea, non so se sono gli ortodossi, i protestanti, allora, le donne mestruate sono come fossero infette e non possono toccare neanche i bambini. Scusi, a parte che cosa c'entra lui con Israele, scusi? È un cittadino italiano, signor Parenzo? Beh, fino a prova contraria. Sì, italiano, ma io sono un cittadino italiano anch'io di origine eritrea. E allora? Non era legato a questo. No, ma non capisco questa confusione. Va bene, Alessandro da Milano, mi ha colpito la reazione. Che cosa l'ha colpita? Non ho capito. Sembra una roba folle telefonare e raccontare sta roba di come si curano i porri, che lo faccia a casa sua. No, Alessandro da Milano, Alessandro, buonasera. Sì, ci sono. Dica. Buonasera a tutti. Allora? Allora, io ho telefonato ieri perché mi sembrava doveroso, sono un medico milanese e devo dire che sono rimasto allibito a sentire nel 2013... divulgata la notizia, insomma, di questa capacità del maestro di poter, diciamo così, porre cura e anzi ho capito, ma Alessandro, ma perché prendete tutto sul serio? Uno è intervenuto, ha detto questa cosa, si ritrova in qualche manuale di medicina popolare di non so quali anni, qual è il problema? Prendete tutto sul serio, è intervenuto un ascoltatore fenomenale, il quale ha detto che secondo lui i porri si possono curare con il sangue mestruale della donna, questo ha detto, diciamolo chiaro, è una follia oppure no? Secondo lei sì, evidentemente. Ma questa è una grandissima follia. Cari ascoltatori della Zanzara, è diventato il nuovo Scilipoti, si chiama Mastrangeli, senatore ex 5 Stelle. Te lo ricordi, no, Parenzo? Beh, il nuovo Scilipoti no. Beh, sì, un po' sì, no, un po' sì. No, un po' perché sì. Almeno non ammanta una grande cultura dice di quel senatore espulso dai 5 Stelle, compagno Mastrangelo. Sì, no? Compagno no, Mastrangelo. No, non è il nuovo Scilipoti. Scilipoti si considera anche un intellettuale combattente del movimento dei responsabili, mentre Mastrangeli, ex responsabile, il MIR. Il MIR. E come te lo ricordi anche con una certa nostalgia, no? Erano bei tempi, erano bei tempi. Con un certo sentilo raccapriccio. Come, senti come combatte con la russa. Se Dio scendesse in terra e mi parlasse, mi scrivesse. Calmo. Mi scrivesse, sì, mi dicesse, guardi, ti metto per iscritto che il programma politico del Movimento 5 Stelle lo realizzerà Ignazio La Russa, sì. Però tu devi dimetterti e il Movimento 5 Stelle si deve sciogliere, io dico, ma dove si firma? Firmo immediatamente, a me interessa solo la realizzazione del programma politico del Movimento 5 Stelle. Do un consiglio, stia attento di queste cose alla russa. Sì, perché lui lo fa domani, perché non scherzo la russa, Ma spopola, spopola, cari ascoltatori, il mitico Sergio, non mi ricordo nemmeno da dove chiamasse, il grande Sergio, uno che ha la cultura popolare dentro, la cultura popolare, che suggerisce cosa la cultura popolare, che effettivamente è così, l'ho ritrovato in qualche ricetta. In qualche ricetta di medicina popolare, no, di medicina ancora antica. La cosa dei porri. Sergio, bisogna, si possono togliere i porri con il sangue del mestro femminile. Io devo trovare una ricetta per togliere alle radici i porri che si formano sulle mani. Ma a me non mi viene nessun porro sulle mani, scusi Sergio. Sì, comunque, i porri vabbè. Vengono tolti sì. Con il ciclo della donna, con la mestruazione. Ma è una cosa terrificante, ma insiste Sergio, insiste. Se uno ha un porro sulle dita della mano, come fa a curarlo? Attraverso che cosa? Bisogna metterci la sera, prima di coricarsi, la mestruazione della donna, il ciclo. Ah, il ciclo della donna sui porri delle mani, giusto signor Sergio? Esatto, vengono estratte proprio le radici, è capitato a mio figlio. Scusi, ma... Le radici vengono estratte fuori. Estratte fuori. Estratte fuori. Continua, continua. Io certo l'ho fatta a mio figlio, avevo le mani completamente piene di porri. Sì. È venuta la mestruazione a mia moglie, io l'ho messa la sera, la mattina non c'aveva più niente, sono uscite fuori anche le radici. Hai capito, Parenzo? Ma che gente brutta chiama, ma che famiglie sono, ma che gente è questa? Ma in che mondo vivono questi? Ma è normale, in Germania lo fanno, in continuazione. Ma dove fanno? Scusi. Ma le mestruazioni, ma di chiunque, ma è ovvio. Le vendono anche nei negozi, nei bar. Al posto della lemon soda. Solo tu che sei un cretino bevi la lemon soda. Devi bere il mestro, è normale. In Germania lo fa sempre, anche Schröder lo faceva, no? Schröder, tutti in Germania bevono una volta al giorno. Previene i porri. È evidente, cretino. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Squinzi il nord a un passo dal baratro, l'Italia rischia il crollo, Letta priorità industria e crescita, ce la metteremo tutta. La sentenza a Mediaset, Berlusconi decideva anche da premier, gestì un'enorme evasione fiscale, la Cassazione grave offesa ai giudici. I 5 Stelle, la sentenza e la conferma che Berlusconi ineleggibile, Grillo tra un anno referendum su Europa ed Euro. La maggioranza, correggeremo il porcellum, ma la soluzione non c'è, l'ipotesi di interventi parziale divide i democratici. Palermo invasa di giovani per l'anniversario della strage di Capaci, Lenzuola Bianca, le finestre napoletano furono veri eroi. Nati in Inghilterra, convertiti all'Islam, i due giovani che hanno massacrato il soldato che aveva solo 25 anni. Il rapporto di Amnesty International, in Italia progressiva erosione dei diritti umani, allarmante livello di violenza omicida contro le donne. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Renzi ha coniato un nuovo nome per il Porcellum modificato, che è quello che hanno in testa alcuni dirigenti del PDL, forse anche qualcuno del PD, no? Sì, modificare non è l'argomento di cui si discute nei bar. Non è un tema sulla A4 di ritorno a casa. No, il maialinum lo vuole chiamare, il maialinum. Questo, ma che mondo! Roberto da Bergamo, buonasera Roberto. Fra poco l'avvocato Alfonso Luigi Marra, no, candidato sindaco l'avvocato di Roma. L'avvocato Mar, Alfonso, ma quanti sono? Alfonso Luigi Marra. Ma Marra è il cognome, Alfonso Luigi è un doppio nome. Lui ha un però doppio è una sola nome. Persona, sì, sempre una sola è persona. È ricchissimo già nel nome, che ne ha sembra, due. Sembra anche molto ricco, non solo nel nome, Alfonso anche Luigi. Nelle finanze. Roberto da Bergamo, buonasera. Oh, eccomi, Parenzo Cruciani, buonasera. Dica, senta, dica. Io volevo intervenire su questo argomento qui. Qualche sera fa un vostro radioascoltatore è intervenuto riguardo l'omosessualità. Sì, ed era molto preoccupato per l'estinzione della specie. Sì, un cretino come al solito. Più o meno. Ecco, allora su questo argomento volevo consigliarvi di lasciare l'ambulanza parcheggiata del box, fare intervenire una mongolfiera, caricarlo sopra e lasciarlo andare nell'etere in modo che racconta le stronzate un po' in giro. Va bene, poi? Poi, su questo argomento invece, io ho una tesi molto particolare. Sì, sono la sua tesi, sentiamo. Sentiamo, esatto, sentiamo. Sono favorevolissimo sull'omosessualità maschile, anzi, incentiviamola. Perché dovremmo incentivarla? Ecco, questo non mi è chiaro. Perché incentivarla addirittura? Ognuno, se uno vuole essere frocio, sia frocio, punto e basta. Ma cioè. No, è meglio incentivarlo così. Così almeno ce ne sono molti di più. Mentre sono molto contrario su quella femminile. Perché? Perché? Perché mi va via la materia prima. Se mi diventano tutte... questo qui è... questo qui è uno che siccome non ha mai rimorchiato in vita sua, sì, allora chiaro. Dice... Lascia bene, Parenzo, non dire stupidaggini. È evidente, questo qui non ha mai beccato... Parenzo, non dire stupidaggini. Allora, per eliminare il mercato, quando c'è tanta concorrenza, lui cosa dice? Se io alimento il mercato, come dire, dell'omosessualità, poi potrei trarne vantaggio. Pensate che genio, perché no? Questo non ha mai battuto un chiodo. Antonio da Salerno, buonasera. Antonio. Buonasera, dica. Sono Antonio. Volevo dire, ritornando alla telefonata di ieri sera, di quel quale signore telefonata? Che avete preso in giro, che parlava del picconatore, anche se in modo assolutamente sbagliato, si esprimeva in modo sbagliato, dei fili, insomma, allora? Tutte quelle cazzate varie, se vi ricordate. Sì. Parenzo, che è così ipergarantista, buonista, gli vorrei chiedere, proprio è una mia curiosità. Sì, la solita cosa, se ci fossero andati di mezzo i figli, cosa la solita cosa. Io voglio per capire, ecco, una cosa. Allora, lei che cosa? No, però non lo domandiamo a Parenzo, che ha già risposto più volte. Allora, lei Antonio, se questo cabobo avesse ammazzato suo figlio, lei cosa avrebbe che fatto? Che modo di ragionare? 2 anni che si alzava alle 4 di mattina in modo così orribile, a parte altri due signori. Lei cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe fatto? Ah, diciamo, no, è un povero Cristo che viveva in condizioni pietose. No, non ho capito. Lei, io ho capito. Io voglio capire da lei. Lei, se sua lei ha figli? Se io ho figli, se questo qua, se questo qua avesse ammazzato suo figlio con un'accettata, lei cosa avrebbe fatto? No, e che cosa avrebbe fatto? Ma lei lo chiedo. La pongo a lei. Ma perché me la deve porre a me? Io la pongo a lei. Io penso in qualunque paese normale si gettano le chiavi. Io che non vuol dire? Che vuol dire concretamente? Concretamente che vuol dire? Che deve stare in carcere tutta la vita. Vabbè, ma quello in carcere tutta la vita ci starà probabilmente, se non sarà ritenuto mezzo matto, se non lo manderanno in gara e magari dopo 10 anni va via. Quello non è un problema. Quello è evidente che anche secondo me dovrebbe stare in carcere tutta la vita. Quello è banale, scontato. Qualcosa però in più si può sempre dedurre che un povero Cristo che ha vissuto in condizioni pietose, bisogna capirlo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist. Che l'accordo con Putin ci fa prendere il gas al prezzo che ha concordato Berlusconi, ma il prezzo è andato giù. E allora che cosa fanno? Fanno il fracking, bucano, dove c'è stato il terremoto nella Reggio Emilia. Io mi ci gioco le palle che una parte della responsabilità sono i fracking, questi buchi che fanno a 5.000 metri, per andare, sai cosa fare? A stoccare il gas senza dirlo a migliaia di persone. Allora, io capisco tutto, però adesso non è che Grillo diventa pure lo, no, lo scienziato che ci dice come avvengono i terremoti in Italia col fracking, che bucano giù e scoprono, eccetera eccetera. Dai, hanno su, hanno devastato l'Italia, gente come te, come voi, Radio 24, gente come Marra, persone che si chiamano Alfonso Luigi. Ma in Germania non esiste tutto, ma questo, come no? Non ci sono nomi pazzeschi, ma non esiste in un Marra in Germania. Ma perché? Ma di chi parla? Ma siete morti, morti che camminano, intervistate le stesse persone, porca puttana, basta, vaffanculo, Movimento 5 Stelle, www.pepegrillo.it. Esatto, che ormai è tutto finito. Siamo qui, 800 24 00 24, con l'avvocato Alfonso Luigi Marra, buonasera. Molto bene. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto, candidato, avvocato. Candidato sindaco. Grazie. A Roma, lei si candida. Grazie praticamente ovunque, caro noi. Avvocato. Cioè, qualsiasi cosa c'è, prima si voleva candidare alle primarie del PDL, poi non le hanno fatte. Adesso sindaco di Roma, nel passato è stato candidato a qualsiasi cosa, vabbè, comunque, insomma, ognuno fa quello che vuole. Nella benvenuto vita, no? Nella corsa. Grazie, grazie. Quanti soldi spende per questa campagna elettorale? Nulla. Come questa nulla? È stata la condizione che ho posto, perché queste liste mi avevano proposto di essere il loro candidato sindaco e io ho posto questa condizione da subito. Ma lei è ricchissimo, dico, però. Purché non debba investire alcunché. Lei è ricchissimo, avvocato Marra. Non è esatto, perché ci sta il governo Monti, finché c'è stato, che mi fa le leggi ad persona. Quanto ha parlato di lei? Sì, sì, mi fa le leggi, cioè, per vincere in sede normativa le cause che io vinco in sede giudiziaria. Non credo il governo Monti, i governi sono preoccupati di lei. È molto preoccupato. Scusi, perché Marra, non è che Marra, non perché è che Monti si sveglia la mattina e dice vediamo come danneggiare l'avvocato Marra. Io non penso che né Monti né Letta si svegliano la mattina pensando a lei. Sì, è una cosa un po' più complessa di come pensi. No, lei crede veramente che Letta, le cause... Ma lei pensa veramente che lei, no, sinceramente, il Bilderberghino Letta, sì. Ah, il Bilderberg Letta. Certo. Che vuol dire? Che c'entra il Bilderberg? Il Bilderberg è un'organizzazione la cui radice è nella massoneria, sì? Deviata, satanica. Satanica. Oggi ho pubblicato un documento in cui ho spiegato come il ruolo della pedofilia. Ma che dice? Nella massoneria, massoneria satanica. Perché cioè, lei sta dicendo che Letta è anche colpevole di istigare alla massoneria satanica pedofila? È certo conscio del fatto che in ambiti massonico, esistano questo tipo di pratiche che hanno la funzione, sì? Ma io di realizzare. No, parenti, fammi parlare. Non c'è bisogno di prendere distanza. Ma no, ma dice delle cose terribili. Non ti preoccupare. Ma massoneria, pornografica, ma di che certo, parla? Certo. Ma come certo? Allora, non dica certo! Lo dica! Mi giro i coglioni subito! Alle 7, alle 19. Facciamo per l'avvocato Marra. Allora, Letta, innanzitutto Letta fa parte del Bilderberg. Certo, fa parte, è un'organizzazione criminale. Come criminale? È un club di persone che si riuniscono. È un club criminale, la cui scaturigine è massonica. Origine, diciamo. Cioè, alla base c'è la massoneria. La massoneria, sì. Poi c'è la massoneria deviata. Sì. Però sì. Poi... No, io lo devo spiegare il ruolo della pedofilia. Ma la massoneria satanica, non capisco. Sì, sì, il sì. Satanismo... Ha una funzione molto precisa. Cioè? Quella di realizzare un regime di compromissione all'interno del quale poi tutti sono legati gli uni agli altri e quindi nessuno può più parlare. Ma Letta è pedofilo, nella vicenda, mica sarà pedofilo, nella Letta, vicenda, no? No, non c'è bisogno che lo sia lui. Nella vicenda di cosa Paolo vuol dire Ferraro, massoneria pedofila, io ho pubblicato. No, adesso non parliamo di cose, no, la gente non le sa. Devi, non mi devi vincere con la voce, vincimi con gli argomenti. Ma voglio capire, vuoi, lei ha detto una cosa gravissima. No, cioè che lei. No, no, no! Ma non mi devi vincere lei con ha la detto voce, che Letta, sennò ma lei ha detto scemo. Una cosa gravissima. E l'ho detto, ora te la spiego anche. Una cosa che è una gravità inaudita, lei ha detto. Cioè che Letta fa parte del Bilderberg. Di un'organizzazione criminale massonico pedopornografica. Sì, perché ma lei, la pedofilia, ma è su 5 minuti, stai zitto un attimo. Ma stai dicendo delle cose gravissime. È certo lei. Che le sto dicendo, fammi parlare, santi Dio. Allora? Non vuoi, che vuoi vincermi con la voce? No. Dunque? Allora, io oggi ho pubblicato su signoraggio.it un documento in cui spiego, il ruolo dell'uso dei minori nelle pratiche sessuali cosiddette sataniche. E qual è questo ruolo? Sì, ma scusi, che il c'entra? Il ruolo c'entra è Letta. di compromettere le persone. Perché altrimenti se uno fanno degli incontri sessuali di gruppo e cantano canzoni medievali, non succede sono quattro deficienti. Cioè lei dice, Marra, dica se ho capito. Aspetta, mi dica se ho capito. Cioè lei dice fanno delle orge. No, mi dica se ho capito bene. Cioè lei dice in questo club Bilderberg fanno delle orge con i bambini. Con i bambini. No, no. E questo li lega per sempre. Questo lei sta dicendo. Sto dicendo che le loro copertura. Una follia. È una follia. È una follia. Allora, stai zitto un attimo. No, però chi fa parte di questo Bilderberg che noi conosciamo? Moltissimi magistrati. Magistrati. Magistrati. Magistrati della Procura di Roma. Di Roma pure. Moltissime espressioni. Chi fa parte? Chi è il tipo? Descrivo io nel documento che ho pubblicato. Sono uomini di grandi poteri ma di scarsi mezzi. Sì. Allora che fanno? Gli buttano sotto una donna, no? Sì. Li coinvolgono una volta un po' di cocaina e li hanno tirati dentro. Sì. La funzione poi dei minori è quella di comprometterli. Benissimo. Affinché poi da quel momento in poi innescano attraverso questi cavalli di Troia, magistrati collusi con queste forze, un meccanismo di favori reciproci. Però, scusi, illeciti. Quanti sono i Bilderberghini nel governo Letta? Tutti sono Bilderberghini. Tutti. Quindi tutti sono pedofili. Ma lo stesso Napolitano, questo è un paese. Ma quindi pure Napolitano fa parte del Bilderberg. Ma Napolitano non fa parte del Bilderberg, però se tu in questo paese guardi negli occhi troppo intensamente un mafioso, sei uno che merita il 416 bis. Ora, vabbè, Napolitano è l'artefice della nomina di Monti, che io ho denunziato in quanto criminale bilderberghino. Sì, certo. E questa la mia denuncia. Ma è stata tradotta. Presa sul serio questa denuncia? Non ma credo. Guardi, io credo sia stata presa molto ma sul chi? Serio. Ma dove? Ma dove? Ma guardi, ora le dico una ma cosa. Lei si rende conto, però io con calma, senza aggressività. Senza arrabbiarmi. Beh, devi usare gli argomenti, sennò sembri un babà. Senza urlare, senza dirle parolacce, con calma. Guardi, con questa calma qua. Però le dici dico, un argomento, però non usare mere però parole con calma, in le dico, avvocato Alfonso Luigi Marra. Certo. Ma che cazzo stai a dire? Allora. Cioè che ci sono al governo dei pedofili, Bilderberghini, massoni al governo, certo. Con rispetto e con calma. Senza allora, urlare, lei i due sta Letta dicendo, sono lei tutti e due Bilderberghini. Due Letta, sì, poi? In questo paese è, grave è massone anche il Papa. Come il Papa? Sì. Ma no, è massone anche il Papa, è vicino ad ambienti massonici. Ma e la Confindustria pure, magari. E la Confindustria pure. In questo paese non puoi, forse anche voi siete massoni, perché non puoi avere ruoli. Non puoi avere ruoli in questo paese se non appartieni a queste cosche. Quindi anche la Confindustria, per esempio, gli Agnelli, che sono gli Agnelli, Bilderberghini, tutti quanti. C'è Squinzi pure, c'è Squinzi. Chi è Squinzi? Capo della Confindustria. Il presidente della Confindustria. Ah, guardi, io non lo so perché non. Ma bravissimo, l'altro giorno parlavo lì, stavo a un giorno da pecora. No? Sì. Ad un certo punto hanno chiamato Gianni Vattimo, perché un mio vecchio amico, certo. L'ho chiesto io, dico, chi, come ospite, parlando con Gianni, ma dico, ma tu che dici di questa cosa? Orribile, sì, no? Sì. Che qui se sai qualcosa in Italia è perché sei membro della massoneria del Billy, di questi circoli criminali. Dice: ma sai, dice, io a volte vado a queste riunioni del Bilder, dico, oh mio Dio, anche lui. E poi c'era, come si chiama, il buon Costanzo, il quale, inutile dire, insomma, anche lui. Cioè, ma qui chi è che non è massone? Allora la domanda. La domanda è l'invece. Berlusconi è super massone. Berlusconi è massone, pacifico, P2. Cioè. Renzi? Renzi è massone, figlio di massoni. Massone, anche. Figlio di massoni, certo, pure ma lui. Ma chi gliel'ha dette queste cose? Fammi piacere, bene. Ma chi vabbè, allora vi voglio chiamare. Allora, dovete sapere una cosa: la Confindustria. La Confindustria. No, non dica le nulla sulla Confindustria, la prego. Le aziende che hanno ruoli. Bill Gates e Bilderberg. Sì, certo. Poi, cioè, qui tutto l'apparato industriale tutto, di rilievo non può che essere colluso con queste forze perché altrimenti non fa. Ho capito. Siamo qui la Zanzara 800 24 0024. Abbiamo capito che in Italia nulla si può fare senza Bilderberg e la massoneria deviata, giusto? Sì. Io ma la cosa più bella di tutte poi, sì. No, ma anche la roba dei pedofili è gravissima, no? Quella che ha detto dei pedofili. Io dico che prima era arrabbiato io con la società, invece ormai ora invece è pacifico questo stato di confusione, perché lo sanno tutti. Ha visto il grillino che in Parlamento io la invito, e il peggiore di tutti è Grillo, massone pure lui. Beh, figlio massone. Ma come figlio massone Grillo? Su, avvocato. Cruciato, vediamo un attimo, esaminiamo, se la denunziano, esaminiamo il comportamento. Ma lei è convinto di quello che ha detto? Io le do la possibilità di riscattarsi. Grillo va, lei è convinto di quello che certo ha detto? Certo che sono convinto. Cioè, convinto. Madonna, ma non mi prevaricare con la voce. Lei è convinto veramente che Letta... Se hai un buon argomento, lei no, io sono avvocato, sto zitto e tu me lo svolgi ma e mi lei vinci. Ha detto che Letta non mi prevaricare, fa parte di un'associazione massona criminale e pedofila. Che è il... Questo lei ha detto. Che alle cui scaturigini c'è molta pedofilia. Ma perché si la, rende la pedofilia ma io la invito a fermarsi. Serve, ma serve. Io la invito a fermarsi. Cioè lei sta dicendo che Letta protegge i pedofili. Questo sta dicendo. No, non sto dicendo che Letta la gravità protegge di quello i pedofili che in maniera aperta. Sto dicendo che sa, il, club, però, sa. Il club Bilderberg, in sì. quanto organizzazione sì. criminale, sì. è un club al quale aderiscono molti e che questo tipo di reati sono il tessuto connettivo. Ma di Letta lo sa o no? Ma certo che lo sa, come lo fa sa. Non sapere. Dunque protegge i pedofili. Ma guardi che lo sa la magistratura. Nella vicenda di Paolo Ferrara. E copre pure lui. Che cosa, che, qual è la vicenda ma, di Paolo Ferrara? È un magistrato. Avvocato, è un magistrato che, avvocato. Qual è la vicenda matto, di Paolo? Matto, no, matto. Non è matto avvocato, per niente. No, no, no, no, no. Avvocato qual male. È la vicenda? Fammi parlare. Qual è, qual è sta dicendo delle la cose folli, La vicenda di Paolo avvocato. Ferrara è che per fermarlo sì? gli buttano addosso una donna, va bene? Addirittura. Una donna, una... Ma lui che aveva scoperto, una... Mi dico una cosa velocemente. Lui era fastidioso. Va perché? Bene. Che aveva scoperto? Perché faceva indagini, processi che davano molto disturbo. Allora finisce che lui convive con questa donna nella casa di lei, che poi è del marito, che anche lui è un militare. Vabbè, poi... alla Cecchignola. Vede delle cose molto strane e ad un certo punto installa un sistema di registrazione e si rende conto che appena lui entra di casa, entra gente in casa, uomini, donne, bambini, e scrivono all'inizio del documento che probabilmente a lui sembra, in una di queste registrazioni si sentono i rumori dell'uccisione di un bambino zingaro. No, vabbè, ma è una storia pazzesca. Ora, comunque approfondiremo. È nata l'esigenza di dichiararlo pazzo perché c'è una collusione globale, generale, culturale ma della magistratura. Le fanno una pippa i complottisti da male. Che sa e tace. Sì. E c'è poi la corruzione materiale, la compartecipazione di molta gente. Che è una cosa in cui io mi chiedevo, ma tutti questi bambini, ma com'è che a tutta sta gente piace, piacciono i bambini? A lei Dan Brown le fa la pippa colossale, no, a lei. Scusa, allora? Scusa. Marra come allora, Dan Brown. Allora, scusi, Dan scusa, Brown. Ma che Dan Brown è un cretino. Anche lui, massone. Ma anche Floris, cosa sono? Che sono Floris e Giannini, le ha detto. Secondo lei, io non lo so che, come li ho definiti? Aiutami a due, idioti, due idioti, perché sono collusi con, perché con, sono collusi con chi? Floris, con chi è colluso? Con il regime, ma perché il sindaco chi lo sta eleggendo? A Roma? Quale chi sindaco? Lo elegge? Che ne so? E lo eleggono i media, che stamattina io sono andato via da TGR. Vabbè. Perché lì ci sta Avvocato la Marra. Par condicio di 3 minuti. Vabbè. E io sono andato via dicendo che Avvocato Marra. Il sindaco lo elegge la cosca mediatica. Vabbè, allora, siamo qui la Zanzara 800240024 con Alfonso Luigi Marra, candidato sindaco a Roma per varie liste, ma è conosciuto l'avvocato Marra soprattutto come quello che a un certo punto pubblicizzava i suoi libri con delle grandi star, a partire da Emanuele Arcuri, c'era anche la signora Sara Tommasi, anche Ruby Rubacuori. Questo è interessante. Lei quando ha conosciuto Ruby Rubacuori? Quanti soldi le ha dato per pubblicizzare i suoi libri? No, intanto? Vabbè, poco. Ma no, lo dica, poco, lo dica, avvocato Marra, trasparenza, su. No, 100.000? No, no, no, poco. 50.000? Poco. 30.000. Poi non le ho date a lei, le ho date a Lele Mora. Ma come a Lele Mora? Sì, sì, perché lei era l'agente di Rubbio. Io ma non scusi, la conoscevo. Cioè lei, per no, vendere, certo. Lei, siccome i suoi libri non vendevano un cazzo, no, no, allora no, ha deciso, detto proprio... Però, scusi un attimo, lei come la definisce la signora Rubbio? Una prostituta? Ma io non lo so i suoi trascorsi. No, ma perché ha scelto di una testimonial per il libro? Una ragazzina, perché non è una testimonial del libro. Io, caro Parenzo, ho fatto un'operazione in questi 2 anni che è stata quella di rendere nota la parola signoraggio. Va bene, perché quando questa parola sarà divenuta sufficientemente nota andranno a prenderla fino a dentro le case. E Rubi che c'è? Coloro che hanno è servita. Poi ci vado a testimoniare questa cosa. Il lei come video la chiama? Una prostituta? Ma non lo so se Rubi è. Secondo lei è andata con Berlusconi? Ma non riesco, non lo so, non lo so. Io dai racconti che so dalle persone che ho frequentato, insomma, no? A me pare che Berlusconi avesse una posizione, insomma, a dir poco singolare, cioè? Insomma, nei confronti dei temi della sessualità. Cioè, in che senso? Della visione del mondo femminile. Cioè? Ma che ne so, uno invita a cena 40 donne, 30 donne, ma che insomma, voglio dire, mi sembra una cosa fuori dalla realtà. Cioè, in che senso fuori dalla realtà? Però io credo che, poi guardi, le dico una cosa, qui non arrestano, no, gli aguzzini di Sara Tommasi fuori di sé, sì. E non lo fanno perché sarebbe un modo di dare ragione a me clamoroso. Ma i magistrati non arrestano per non dare... della rete, sì, sì, ma sì. No, dai. E stanno, insomma, sta storia... A proposito, in che condizioni la signora Tommasi? Pessime. Pessime. La vista, quando la si... No, non l'ho vista, ma la sento a volte per telefono che mi chiama. Quando a volte la si vede in questi video, cose in cui sembra che stia bene, perché le danno, secondo me, della cocaina. Sì. Sara, ma lei è cocainomane? Affetta, certo, che Sara. È sì. Certo, e va bene, una domanda. La gente mica lo sa. È certo. Sara, ma quanta cocaina prende? Ma è ninfomane pure, ha un'infomania anche un po'. Assolutamente no. No. No. Sara è affetta da un blocco psicotico, questa, cioè? È la sua patologia. È una forma di regresso, per cui lei nel ma può guarire, secondo lei ormai no, difficile. Può guarire, certamente non in queste condizioni. Come finisce? Sara, come finisce? E sarebbe necessario, io l'ho detto alla madre, con la quale sono in rapporti, sì, affettuosi, poverina, che cerca di, sì, fare il possibile, invoca le iniziative giudiziarie della Procura di Salerno, che però non arrivano, non sappiamo, del resto è un classico che l'autorità giudiziaria italiana ti fa morire prima. Ma essa ha fatto pure il secondo porno. Certo, pure 40, le fa in quelle condizioni, Sara, se le dici di buttarsi dal balcone, quella si butta dal balcone. Ma non c'è modo di fermare questa cosa? Secondo me il modo sarebbe, ma la madre forse ha delle... Ma lei ha avuto una relazione? Ha avuto una relazione? Beh, in passato, sì. Con la signora... Dunque, si può dire che ne ha approfittato pure lei, no, di queste, no, condizioni? No, no, no. Stava bene all'epoca. Stava bene, no. Il modo di fermare Sara sarebbe quello di nominare un amministratore di sostegno. Che potrebbe essere lei? Cioè un, no, che non assolutamente la madre o qualcuno. Letta magari. Adesso ha fatto pure un filmato lesbo con una sua... Ma Sara assistente. In queste condizioni fa qualsiasi tutto. Cosa. Cioè, voglio dire, Sara è una che non ragiona. Cioè dice, piena di cocaina fino alla midollo. No, Sara, a parte la cocaina, ha gravi problemi psichiatrici. Ma come finisce? Mi dica come finisce. Secondo me malissimo. Cioè, muore. Perché una persona che sta in queste condizioni, all'interno di questi giri, overdose... gentaglia di ogni specie, sesso, insomma, estremo. Temo che non finisca bene. Cioè muore, secondo lei? Ma io non lo so se muore, ma temo non finisca bene, ed è molto grave, credo, che l'autorità giudiziaria, di fronte a tutto il paese, che ha visto ad esempio il video delle Iene, in cui era visibilmente fuori di sé un attimo prima del famoso, sì, film, la Procura di Roma, se l'è guardato il video ma non ha fatto niente. Allora devi sapere che l'avvocato Marra ha una bellissima villa sull'Appia Antica, se non sbaglio. So. Non esattamente sull'Appia Antica, non è, dove questo è? All'Eur. All'Eur, scusa, all'Eur. Ma lei ha i conti in banca? Lei che è il grande nemico delle banche, ce l'ha un conto oppure tiene tutti i soldi in contanti? Dica la verità, Marra, su. Sfortunatamente le banche sono... Ma guardi che io poi non sono contro le banche. Vabbè, ma lei ha dei conti in banca? Per forza. Però ha anche grandi quantità di denaro liquido. No, io non ho grandi quantità di denaro liquido perché è una scomodità. Quanto è ricco lei? Quanto è ricco? Poco, perché la sua io ultima dichiarazione sempre... dei redditi quant'è, avvocato? Insomma sono alte. Comunque, cioè tipo io sono 2 stato, milioni di euro? Che ne so, no, di più. Il 18esimo un anno ero contribuente della Campania, insomma sono... 4 allora, milioni di euro all'anno. Ma sia trasparente, è candidato sindaco, mi dica l'ultima dichiarazione, quanto ha dichiarato? 6 milioni di euro. Le mie dichiarazioni sono euro. Tipo 1 milione, cose così. Però insomma. Il patrimonio... No, non ho nulla, perché io ho sempre guadagnato tutti i soldi che ho voluto, ma li ho poi sempre spesi per le sue iniziative. Il fine di cambiare la società, che credo che sia per verificarsi, e non, stia attento, e non in virtù di gesti di buona volontà da parte di qualcuno, neanche della società, che secondo me è peggiore del potere. Ma secondo lei la Tommasi è stata con Berlusconi? No, credo che Sara non sia stata con Berlusconi, no. Penso di no. Poi se mi ha mentito del tutto, però credo che poi non avesse motivi, che non è che io stavo lì a censurare, cioè certo. Poi Sara è una talmente libera che non... No, io credo proprio di no. 800240024, Gabriella da Roma, buonasera, Gabriella, signora Gabriella. Gabriella? Pronto? Dica? Sì, scusi, no, perché sto guidando alla mia costo. Allora? Sì, mi dispiace, no, perché cioè, temevo che mi sbattevate il telefono in faccia. No, è perché... No, io volevo parlare dell'utilizzo del sangue mestruale per curare i porri. Oddio mio, Gabriella, pure lei. Ho no, aperto un perché... vaso di Pandora pazzesco, ho aperto un filone inesauribile. Per curare che? I porri. Ah, i porri. Oddio. Voglio essere possibilista perché sono medico. Ma come possibilista, Gabriella? Non mi dica che lei ci crede a questa cosa. No, allora le dico... non ci sono evidenze scientifiche, però siccome nessuno ha mai fatto una ricerca in merito, resti con noi perché le leggo una cosa che ho trovato ieri quando è intervenuto l'ascoltatore. Sono andato a fare una ricerca ed effettivamente tra le credenze popolari della medicina popolare c'è anche questa roba là, insieme a delle cose terribili. Zanza, zanza, zanzare, io trovi in montagna, in collina, in campagna. Eccoci qui, cari ascoltatori, una puntata molto satanica della Zanzara. 800240024. Cara Gabriella, mi sono conservato un foglietto di carta. C'è scritto: Porri, procurarsi una cosa di lucertola, tagliarla e lasciare colare il sangue sul porro per eliminarlo. Sono ricette di medicina popolare, non so di quali anni, ma uno può provare anche, i porri, procurarci una cosa di lucertola, tagliarla, cioè lei ammazza una lucertola. No, per carità, io sono animalista, mi dispiacerebbe. E vabbè, allora lasci perdere questo primo consiglio. Vale 4 soldi il sangue mestruale, quindi è molto più economico. Secondo consiglio: prendere un fagiolo crudo e strofinarlo sul porro, dopodiché bisogna buttarlo in un pozzo profondo. Adesso questa cosa non capisco, scusa. Ma il pozzo profondo è curioso. Prendere un fagiolo crudo e qui ci siamo, strofinarlo sul porro. E va bene. Dopodiché bisogna buttarlo in un pozzo profondo. Adesso la cosa del pozzo profondo francamente non la capisco. Questo, ma la tazza del cesso può andare bene o no? No, pozzo profondo. Terza, se non c'è il pozzo, eliminiamo questa seconda cosa. Ho capito, ma nel bagno ci sarà, no, tiri l'acqua, profondo, ma ci sarà un pozzo. Sai i pozzi quelli là che sono nei casolari? Pozzo profondo. Se non ce l'hai, niente, eliminiamo. Ma non basta cosa. Buttare dentro un bagno. Ecco il terzo consiglio: prendere del liquido mestruale e versarne sul porro alcune gocce. E questo è possibile farlo. Secondo il nostro ascoltatore, quello che ci ha chiamato ieri aprendo questa discussione interminabile, basta avere anche la zia, la suocera, il vicino, scusi, mi dà un goccio di sangue mestruale. Secondo te, uno bussa dalla suocera, gli aspetta, chiede, ma che... accendere un grande fuoco. Ma che gente chiama in questa trasmissione? Aspetta, accendere un grande fuoco e versarvi del sale in modo da provocare degli scoppiettii. Colui che ha i porri dovrà otturarsi le orecchie o scappare via per non sentirli. Oppure ancora prendere un fico acerbo e bagnare il porro con il lattice del fico. Ripetere l'operazione per 7 giorni. Vabbè, signora Gabriella, lei come vuole fare? No, allora, vabbè, al di là di tutte queste storielle, io faccio un discorso scientifico. E qual è il discorso scientifico? Il sangue... Allora, se questa cosa funzionasse, io non lo so, sarebbe interessante che qualcuno facesse una ricerca, ma se funziona, può significare... che nel sangue sono presenti sostanze con potere antivirale, perché i porri sono le verruche causate dal papillomavirus. E allora? Cioè, voglio dire, tutte le scoperte più importanti sono state fatte. Guardi, non credo che la salvezza per l'umanità e per le malattie arriverà dal sangue mestruale, ma io lo ringrazio. Siamo qui in diretta dagli studi di Roma con l'avvocato Alfonso Luigi Marra, candidato a sindaco per svariate liste, adesso non facciamo nemmeno il conto, forse non le sa nemmeno lui, il quale... difende, ma lei chi difende, avvocato? I consumatori contro le banche? Come li fa i soldi lei? Mi dica la verità. Ma io faccio le cause contro le banche. Ah, ecco, trovo singolare le che le, sì, si vincono regolarmente. Io le faccio all'80. Prima li facevano schiattare con i tempi lunghi, ora no, ora sono cause che si fanno facilmente. Sì. E trovo incredibile, infatti io dico che se io entrassi in un'amministrazione comunale a qualunque titolo, la prima cosa che farei è fare causa alle banche creditrici, perché sono falsi crediti, per recuperarli, io dico per contestarli, io dico tutti, ma la magistratura dice la più parte, la giurisprudenza è orientata non come dico io, ma... e trovo incredibile che le pubbliche amministrazioni, non è incredibile che sono collusi, non facciano queste cause, no? Quindi io, però, avvocato, adesso perché torniamo... il comune di Roma con 12 miliardi di debito e una miliardata all'anno di costi di questi miliardi, certo che non può fare niente. Se lo liberi da questo debito, ecco che hai recuperato i soldi che sono il corrispettivo. Avvocato Marra, chi sono? Lei ha parlato oggi di cose pazzesche, la massoneria satanica, del ruolo della sessualità minorile per creare un legame all'interno di questi criminali. Lei chi è il capo dei massoni in Italia? Ma lo sa, vabbè, a parte che c'è la massoneria palese, che secondo me è comunque un'organizzazione illegittima. E vabbè, d'accordo. Perché loro si atteggiano a discreti, ma quelli sono segreti. Ma guardi, i due Letta sono massoni, Berghina, Spenì, sono tutto. Tutto. Cioè, sono Berlusconi, criminali. Secondo lei, il Presidente del Consiglio è un criminale. Io credo che sia un criminale. Ma si rende conto di quel che dice? Ma chiamate un Renzo. Ma uno non può dire che è un criminale il Presidente del Consiglio. Si è letto con quegli occhi. occhiali, una persona pacifica, ma normale. Un uomo tenuto in piedi dai vestiti, dico che, io. In che senso tenuto in piedi dai vestiti? Sì, perché ma un uomo che non ha anima, non ha spina dorsale. Ma lei si rende conto di quello che ha detto nel giro di pochi minuti? Certo, io sono avvocato. Che è anche coperto i pedofili, dice lei. Copre pure i pedofili. I pedofili lui non li copre, non ha bisogno di coprirlo. Questo attiene ad altri stati. Allora, poi il più potente tra i Bilderbergini chi è? Ma guardi, i più potenti sono i detentori di denaro. Perché chi? Poi questi qui non contano niente. Lei pensa che Letta conta qualche no, cosa? No, conta un cazzo, dice lei. Letta non conta, Letta, Monti, questi sono degli sciacquapiedi. Chi è i grandi burattinai? Chi sono chi i pupari? Chi è il mangiafuoco? Ma nessuno di quelli che si vede. Nessuno si perché vede. Nel ecco. Il Bilderberg è dominato dalle dinastie. Ma l'avvocato Marra è peggio di Dan Brown, basta! No, zitto. Il Bilderberg è dominato dalle grandi famiglie dei banchieri, dai Rothschild. Ah, sono quelli? Ai quali questi qui non gli sciacquano manco le palle, ma detto, insomma, ma questo in è il codice, Variletta, ma il codice da Marra questo, non il codice da Vinci, il codice da Marra è il codice da Marra questo. È il migliore nell'essere il peggiore. Cioè a dire, lui è il peggiore nella maniera più sofisticata, però. Cioè? Ma per esempio fa parlare questo ragazzettino in Parlamento. Questo deputato, sì, che tuona contro il signoraggio. Sì, però lui si astiene dal parlarne. Questo gli servirà a dire che anche lui ne ha parlato e a magari a lanciare qualche segnale, perché poi pure lui lo tengono sotto ricatto. In che no? senso lo tengono ma sotto? Ma basta pensare al fatto delle 13 società. Vabbè, ora, mica l'hanno intestata a lui questa società. Certo, ora l'autista dichiara, io non ho un euro, però poi ha 13 società che costano un botto ogni anno da mantenere e che servono esclusivamente per esportare illecitamente capitali. Cioè non vuole dire i capitali di chi? Di Grillo? Di Grillo, è chiaro. No, ma lei sta dicendo delle cose gravissime. Ma per amor di Dio. Lei dice che capitali di Grillo vanno verso queste società? No, io le società pare che fossero vuote, però le società sono sicuramente di Grillo, perché significa accettare che ci chiami cretini. Avvocato Marra, lei sta dicendo che Grillo porta dei capitali all'estero e li mette in queste società. Non lo so se Grillo ha portato i capitali all'estero, perché non conosco la vicenda in dettaglio. Però, Dico con certezza che se quest'autista non ha, come lui dichiara, un euro, non può avere 13 società che costano un occhio della fronte all'estero, sì. E né ha senso che le abbia, perché questo tipo di società, le società all'estero possono essere di molti tipi e per molte funzioni, queste sono delle società finalizzate alla realizzazione di progetti in questi paesi con soldi che tu gli mandi da qui. Perché senta, non è che vuole sentire non prima hanno di chiudere, altro non è che senso. Vogliamo sentire la signora Tommasi, no? No, ma che facciamo una telefonata, no? Prova a farla tu la telefonata, ti rendi conto di in che stato sta? Se no, la chiama, però risponda lei. No. Se la chiama, vuole... la saluta lei. Non vuole fare, no? No, perché dire. Sara, lo farei per dimostrare al paese in che stato sta il questa paese. Persona e, come ma, e chiedere come mai l'autorità giudiziaria non interviene. Ma ancora a fermare può morire il suo, secondo me, insomma, è a grande rischio di avere incidenti molto gravi, di overdose di droghe, incidenti, perché poi in mezzo a gentaglia inqualificabile. Ma la politica è coinvolta in questa cosa, da Tommasi? Ha qualche responsabilità? Sì, gli ambienti governativi. Certo. Come gli ambienti governativi? Allora, allora, dietro questa gentaglia ci sono i servizi segreti. Però i servizi come segreti? Come i servizi segreti se ne fondono di quel caso? Ma di che parla? I servizi segreti sono coinvolti nella vicenda della Tommasi? Certo, cioè deviati. Ma come certo? Ma deviati da chi? Ma deviati dalla sua testa, Dan Brown! Stai zitto, il codice Parenze, da non mi vincere con la voce, ma il codice da perché Marra, i tuoi argomenti sono argomenti molto stupidi, ma però rendi tu ma si rendi li valorizzi urlando. Ma scusami, Marra, io tu non puoi pretendere, io ho fatto l'avvocato per 40 anni, ti giuro che giochini, tu vuoi valorizzare gli argomenti urlando. Non urlo più, però scusami, stai zitto, dai, stai zitto, Marra, non urlo, ma nell'ordine hai detto che allora stavo dicendo oggi hai detto che uno è pedofilo, presidente del consiglio è pedofilo, poi hai detto che ci sono, ma ti rendi conto delle castronerie dette nel giro di mi processino. Beh, i servizi segreti deviati, certo, perché ma come certo non perché i servizi è ovvio che i servizi segreti non si interessano di subretti sono gli esecutori materiali di altri ambienti, quelli bancari e quelli filo governativi bilderberghini, che hanno perché qual è il collegamento tra Bilderberg e Sara Tommasi, avvocato? Ha fatto la piara che cruciale, io glielo ho detto, fate gli ingenui, ha fatto la piara Sara cruciale, poteva diventare, stava diventando la simbolizzazione della lotta al signoraggio, allora della l'hanno ridicolizzato questi idioti, perché credono che ridicolizzando Sara possano ridicolizzare il signoraggio o me, perché sono degli imbecilli. Comunque, diciamo, no? Di la verità, il signoraggio bancario che lei tanto accusa, non è che le ha impedito di diventare ricco, avvocato Marra, diciamo la verità. Anzi. Lei è diventato ricco, cioè il paese non va allo scatafascio, lei in questi anni accusa il signoraggio bancario, intanto è diventato ricco, diciamola tutta. No, io sono un uomo di eccezionale abilità, posso diventare ricco, poi fare quello che mi pare. Vabbè, chiamiamola però Tommaso, ha reso il signoraggio bancario, ha reso povera la società, ed è una cosa, è un crimine di straordinaria efferatezza, di cui Letta, poi guardi, il crimine ancora, più grave, il crimine più grave di questa gentaglia non è che sono Bilderberghini, è che sanno che cos'è il signoraggio e fanno finta di nulla, fanno finta di ignorarlo, fanno finta di fare leggi, fanno finta di fare cose che non hanno nessun significato, perché se non si nazionalizzano le banche centrali, cioè la Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea, la società non ha scampo. Quindi, vabbè, questo è il signoraggio. Questo è il punto cruciale. Però, allora, scusi un attimo, lei è diventato ricco, però la società non va allo scatafascio. Lei, con questo, nonostante il signoraggio bancario che tanto accusa, è diventato ricco. Ammesso che io sia ricco, vorrei sapere, si accerti di come sta. Vorrei sapere quanti altri lo sono in questo paese. Si accerti di come sta. Due minuti, solo per accertarsi di come sta. Sì. Saretta? Amore mio, come stai? Sto... E ti ha voluto chiamare Cruciani, vedi? Perché io dico che tu stai malissimo e che, insomma, che sono molto preoccupato per te, perché potrebbero succederti queste cose terribili che ti fanno fare delle cose gravi. Però il paese, l'autorità giudiziaria non se ne vuole accorgere. Va bene. No. E spiega, vediamo un po', enuncia qualche concetto, dici qualche cosa. Ma mi chiamano adesso? No, tu stai in linea, stiamo qui, stiamo io, Cruciani, Parenzo, stiamo alla Zanzara. Salve, signora. Dai. Dici. Sara, come stai? Benissimo. E allora perché dice Alfonso che stai male? C'è una bella voce, effettivamente. C'è una voce squillante, dice Alfonso che stai malissimo. No, sono... Stai tranquilla? Sì, sono tranquilla. Lui dice che stai malissimo, che sei in una situazione di una gravità assoluta. Ma no, perché lui vuole tornare insieme a me, è una dichiarazione d'amore, adesso mi viene a prendere col cavallo bianco e mi sposa. Beh, questo già ci fa capire. No, sta scherzando. Stai scherzando. Ovviamente. Stai bene, siamo sicuri, sì. Io faccio di in bocca al lupo all'avvocato, perché è candidato, e va bene. E poi? No, ma stai bene? Stai bene? Sì, sta bene. Vabbè. Ciao, Sara. Grazie, ciao, avvocato. Sara. Grazie di essere stato con noi. Alfonso Luigi Marra, avvocato, candidato a sindaco di Roma. È la zanzara, la zanzara, la zanzara, la zanzara stronza. Eccoci qui, cari ascoltatori, di ritorno dopo l'esibizione di Alfonso Luigi Marra. 800 24 00 24. Questa è la zanzara. Simone da Napoli. I Bilderberghini, che non dico che coprono, però sanno che c'è di mezzo la pedofilia, eccetera, eccetera. Simone da Napoli, buonasera. Pronto? Dica. Volevo rispondere a Parenzo, che lo vedeva accanito contro Berlusconi. C'era prima quel deputato con una proposta di legge che poteva essere discutibile, però lui parlava sempre contro Berlusconi. Ho detto un'altra cosa, ho detto che l'onorevole Abrignani, anziché presentare una proposta di legge per punire chi fa un fischio a una manifestazione avversa, dovrebbe preoccuparsi. Ma che te ne frega di mettere sempre in mezzo Berlusconi? Parla di quella legge folle che vuole presentare a Brignani, che è folle anche secondo me. Ma cosa c'entra Berlusconi? Smettila. Di non modificare, come hanno fatto, le leggi sul falso in bilancio, sulla prescrizione. Ma sono altri argomenti. Sono altri argomenti. Anziché pensare di multare o di mandare in galera chi fischia una manifestazione. Salvatore da Catania, buonasera. Questa è la follia. Buonasera. No, dica. Io guardi, io sono veramente arrabbiato fortissimo. Cioè, perché è arrabbiato? Scusi, Salvatore. Ma perché, guarda, io mi ero messo in politica e me ne uscirò veramente, perché io ho fatto questa per aiutare i giovani. Ma chi? No, perché prendere in giro l'Italia. Capito? Ma chi sta parlando? Cos'è questa qui, radio? Quindi Salvatore, lei ha chiamato Radio 24, la Zanzara, la radio del Sole 24 Ore, Salvatore, va bene che dalle 18.30 alle 21 diciamo è un'altra musica, però lei cosa ci vuole dire, scusi, soprattutto di cosa vuole parlare, caro Salvatore? Ok, allora io sono, prima di tutto mi presento, sono Salvatore Sciorello, il talento bislacco della Barbara D'Urso, pomeriggio 5, canale 5. Ma io non ci credo nemmeno. Il talento bislacco? Ma io non ci credo nemmeno se la vedo in faccia, lei ci sta pigliando per il culo, ma va benissimo, Salvatore. No, ma quale per il culo? Il culo mi piglio, sono me stesso. Sì. Io sono quello che... Allora, lei è Salvatore, scusi, lei è Salvatore? Il ballerino, quello che ballava la danza del ventre a pomeriggio 5 dalla D'Urso. Quello che ballava o balla? Perché io poi non seguo perché siamo in diretta qui. Ballava la danza del ventre? Che quello che ballava la danza del ventre a pomeriggio 5 dalla allora? Barbara. Beh, vabbè, sì, ma vabbè, questo, dunque, ce ne frega, che ce ne frega a noi? No, che ce ne frega perché io praticamente adesso avevo presentato il simbolo della rosa nera, i gay di destra, no? Il simbolo della rosa nera, i gay di destra, così dice, mi sembra. Sì, di cui sono stato veramente discriminato, ignorato. Ma da chi discriminato? Manca solo da la chi? Rosa nera adesso, mancava solo la rosa nera al menù di oggi. Adesso anche perché io praticamente mi sono candidato anche al consiglio comunale con il sindaco avvocato Afonso Marra. Ma dove si è candidato? Ma lei ha bisogno di prendere della benzo? Cioè lei è candidato al comune di Roma? Sì, come fronte giustizialista. Fronte però giustizialista, come si va? Adesso controlliamo, lei si chiama Salvatore di cognome? Fiorello Salvatore è il mio cognome, Fiorello, vabbè, Salvatore Fiorello. Ma lei è il mio nome d'arte. Vabbè, allora, dunque, lei è candidato con Marra, dunque? Dunque, io volevo arrivare a dunque di trovare almeno qualcosa, un qualche posto di lavoro per me e per aiutare i giovani. No, scusi un attimo, lei ha telefonato per chiedere un posto di lavoro per sé e per i giovani. Secondo me l'unica cosa che lei deve fare, se ha, penso, su 20 euro e la tessera sanitaria, lei va un attimo in farmacia, bussa e dice: salve, sono il signor cos'è? Salvatore Fiorello. Salvatore Fiorello della Rosa Nera. Dice, sì, come, dice il farmacista? Dice, no, sono della Rosa Nera. Venga, senta, tenga questo flaccone di gocce, sono delle benzodiazepine, le diamo 4-5 gocce di benzodiazepine e domani mattina vedrà che la rosa nera diventa improvvisamente rossa. Ecco, fine, questo è quello che ha capito, deve Salvatore? Fare. Recarsi carogna, così a piedi. Vabbè. Come? A piedi. Che carogna che siete, vabbè. Ma chi è? Comunque, i gocci io le faccio prendere ad altri, sì. Comunque siccome io sono fiero di quello che sono, sono molto contento e mi piaccio per quello che sono, perciò vabbè, le critiche ma questo, le ma questo chi se ne frega? Ma questo va benissimo che lei sia contento per quello che è, benissimo, la Rosa Nera è un progetto meraviglioso. Lei non trova più lavoro, sta dicendo, no? No, ma che perché queste persone stanno giocando con la mia immagine. Ma capito? chi sta giocando con la sua immagine? Chi sono queste persone? Lei è dove un mitomane. Abita lei a Roma? Scusi, dove no, abita? A Catania. Lei sta a Catania. Catania in che zona sta a Catania? No, io sto in provincia Catania. Allora, comunque. No, ma in provincia di Catania dove? Scusi, dove in provincia di Catania? Questo è importante. Dove in provincia di Catania? Vicino Bronte. Allora, vicino a Bronte, io vedo qui da Google Maps, sì, ci sono partita, un po' di farmacie, Catania, io sto cercando, Bronte, così, sì. Bronte. Cosa che deve prendere esattamente questo signore? Gocce di benzodiazepina, farmacie Bene, di andiamo turno. Andiamo a Pisa, aperte. Marco, buonasera, arriva, Salvatore, non si preoccupi, la portano alle farmacie, sanno tutto, Lorenzo Parenzo dà tutte le indicazioni. Alessandro da Genova, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, volevo dire del signor Marra, mi sembra che è un po' fuori di testa, non è tanto normale quel signore. No, perché? No, è normalissimo un avvocato. No, ma è intanto che prima di arrivare alla trasmissione si è fatto un po' di droga, un po' di cocaina. Per carità. No, ma perché no, dice così? No. Figuri? Ma sì, ma assolutamente, figuriamoci, ma stiamo scherzando, ma perché devi dire così? No, ma guardi che sono serio, ma è assolutamente tutto tranne che cocainomane il signor Marra, assolutamente. Ma perché lei perché lei dice queste cose, Alessandro? Perché ha detto il signor Marras che mi fa il caino. Ma... Cosmo da Milano, non diceva di lui, Cosmo da Milano, signor Cosmo. Sono io, buonasera. Sì. Buonasera. Cosmo di Soprani Pensieri @io.com 3278 0801. Ma che ho fatto di male io nella vita? Lei si chiede solo. Due o tre briciole prima delle pagnotte. Sì, ma che ho fatto di male io nella vita? Che ho fatto Cruciani, ce n'è una terza anche, ce n'è una terza anche per lei. Che la reato prima, ho commesso io, Parenzo, carissimo Cruciani, ci verrò a trovare, spero tra non molto. Speriamo di no per Cruciani a questo punto. Perché mi deve venire a trovare? È una minaccia questa qua, scusi. No, con affetto, con amicizia. Allora, la prima, voglio dire, ti taccio o no? Può farvi, perché lei non chiama da Marigioni? Io sto e volevo già dire, avrei voluto già dire che quel minchietta, il minchietta di Parenzo, deve tacersi e lasciar parlare Marra, perché a noi interessava ascoltare Marra. Beh, io capisco, a noi chi intanto, scusi? Quel minchietta di Parenzo la prossima volta noi sia chi? Zitto. Noi ascoltatori. Noi ascoltatori. Ma chi è che lei... sto rispondendo a Parenzo? Va bene, Cosmo, la ringrazio. Grazie, Cosmo, aspetti lì. Fermo. Da lei ha bisogno di una persona, adesso fra poco gliela presento. Siamo in collegamento, forse con l'unico vero esorcista presente in Italia. Questa è una cosa molto seria, adesso non stiamo più scherzando. Monsignor Andrea Gemma, vescovo emerito della diocesi di Sermia-Venafro. Buonasera, Monsignor Gemma. Buonasera a voi. Come sta? Benissimo. Ma io ho bisogno già... Ma da dove parla? No, da dove parla? Dalla diocesi, Monsignor Gemma? No, sono molto lontano dalla mia diocesi. Dove sono? Sono in Brianza. Ecco, come mai, Monsignor Gemma, come mai? Sembra di stare... Vado girando, mi chiamano un po' dappertutto, quindi mi presto ancora, dato che il demonio non mi ha ancora... Non l'ha ancora? Non mi ha ancora fatto sentire gli effetti delle botte che io gli do continuamente con i miei esorcismi. Cioè, per il momento vince lei, diciamo, no? O no? Ma guardi, io dico che vincerò sempre, perché non sono io che lo combatto, ma è colui che si serve di me per combatterlo, ed è nostro Signore Gesù Cristo. Senta, Monsignor Gemma, ma lei cosa è andato a fare in Brianza? Però... È andato a curare qualche indemoniato, possesso? Non fare, o no? Soltanto oggi ne ho curati, diciamo, almeno 5. Di cui 3 molto gravi. Ma cosa avevano, quelli più gravi, cosa avevano, Monsignor Gemma? Erano posseduti dal maligno. Ma che cosa facevano? Per esempio, che facevano? Faccia un esempio per farlo capire a tutte le persone che ci anche stanno anche a me, che sono un po' scettico, francamente. Che facevano, monsignore? Che facevano? Sì. Bisognerebbe vedere questi effetti. Facevano tutto quello che fa uno che non è più padrone di se stesso, quindi bestemmie, turpiloquio, poi parole ingiuriose contro l'esorcista. Beh, magari era arrabbiato e basta, no? Contro Cristo, la Madonna. Questo fanno i posseduti allorché un esorcista... Ma magari era ribloccato del traffico tutto il giorno, gli sono girati a un certo punto i 4 minuti e ha cominciato, cioè capita, lei no? Come fa a sapere che tutti che quelli posseduto? Che sono nel traffico sono indemoniati, no? È lì in macchina, c'è un traffico pazzesco, deve tornare a casa, la moglie che lo chiama: amore, hai comprato le cose? Fratello, poi lo chiama la suocera. Vescovo, scusi, come fa a sapere che era veramente posseduto dal demonio questo qua, queste persone? Ha ragione, ottima domanda, da intelligente. Lo deduco dal fatto che non può sostenere lo sguardo fisso sul crocifisso che io porto al collo. Secondo, non può sostenere lo sguardo fisso sulla Madonna che io porto incisa sul mio anello episcopale. Poi non può assolutamente fare preghiere di ogni genere. Se poi vi interessa, quando, parlando di molti anni or sono, quando un bambino di 9 anni, io l'ho interrogato in lingua latina, dato che io sono professore di latino e di greco, certo. L'ho interrogato in latino, e questo ragazzino di 9 anni, che per disgrazia era posseduto, mi ha risposto tranquillamente in latino. In latino, certamente. E dunque, il fatto che rispondeva in latino significa che era posseduto, Monsignore? Vuol dire che non era lui, e se non è lui... Certo. Che c'era il maligno dentro, lei dice. Ma l'angelo non rifugge dal cosa sacra, il demonio dallo sguardo, il demonio sì. Senta, ma cosa gli aveva chiesto il latino? Magari semplicemente ha ripetuto le parole. Andiamo a una cosa fondamentale. Il papa è una cosa molto discussa, come lei sa. Ha fatto un gesto di esorcismo l'altro giorno oppure no? Ottima domanda. La oggettivamente parlando, il gesto che ha fatto è un gesto di esorcismo, perché ha imposto la mano sulla fronte di quel disgraziato e da quello che si sa chi glielo ha presentato chiedeva di aiutare questa creatura. Sì, no, questo è importante, perché sa, ci sono state la televisione della CEI prima ha detto che era un esorcismo, poi ha smentito signor a metà. Signor Boffo ha smentito. Questo ho detto, che l'esorcismo è una realtà oggettiva, cioè è una preghiera. Molti credono che l'esorcismo sia chissà qualche cosa strana, di stregoneria, invece non è nient'altro che quello che ha fatto il Papa, stendere la mano sulla testa di un disgraziato e, immagino, io non ho sentito la sua preghiera, abbia chiesto al Signore di guarirlo. Ora, siccome chi è malato, anche solo di qualche malattia fisica, perlomeno indirettamente sotto l'influsso del maligno, l'esorcista, dicendo la sua preghiera o imperativa o impetrativa, fa altro che chiedere al Signore di cacciar via quel diavolo o quei diavoli. Benissimo, abbiamo avuto una sentenza fondamentale, dal vescovo emerito della diocesi di Isernia Venafro, Monsignor Andrea Gemma, che fra poco ci spiegherà perché in realtà lui si sente, però ci sono prove ufficiali di questo, l'unico vero esorcista, diciamo, ufficiale, perché... Papè Satan Aleppe, diceva Dante. Eccoci qui, cari ascoltatori, con Monsignor Andrea Gemma, che fra poco ci deve lasciare, vescovo emerito della diocesi di Isernia e Venafro. Ci spiega, Monsignore, perché lei in realtà è l'unico vero esorcista in circolazione? Questo lo dovreste domandare ai miei eccellentissimi confratelli. Cioè, che rifiutano non solo di fare gli esorcismi che potrebbero fare, ma rifiutano addirittura di delegare sacerdoti, per cui tanti poveretti mi raggiungono da tutte le parti d'Italia, dal nord alla Sicilia. E perché non ci credono agli esorcisti, non credono al demonio? Perché? Questo lo dovreste domandare a loro. Ma a chi esattamente, scusi, Monsignor Gemma, chi lo dovremmo chiedere? Cioè ai vescovi? Ai vescovi, certamente. Cioè i vescovi non credono al demonio, lei dice? Domandargli se credono al demonio. Io credo al Vangelo, e nel Vangelo c'è scritto che Gesù, nell'ultimo momento della vita terrena, ha detto: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, sanate i malati, cacciate i demoni. Io credo al Vangelo. Ecco, ma il Papa chi è che la... Ma qual è la perché formula? Lei si sente, perché lei si sente il, come dire, l'unico vero esorcista? Non mi sento, è una realtà. Me lo spieghi. Mi dicono che in quella diocesi non c'è, in quell'altra non c'è, in quell'altra non c'è. Non lo vuol fare nessuno, questo dice. No. Beh, alcuni ci sono, per esempio Padre Amort, no? Padre Amort. Alcuni preti delegati a Milano, in Calabria, ci sono. Però lei ha tanto, quello che lei mi sta dicendo è che lei ha tanto lavoro. Cioè, interessante, seriamente glielo chiedo, signore esorcista, ogni giorno quante chiamate riceve lei? Per, di assistenza. Di assistenza. Sull'ordine di 50. Al giorno? 50. Che cazzo, che paese è? Senta, ma ci sono politici? No, scusi, ma questo è importante. 50 chiamate al giorno di gente che sente. Di gente che vuole essere aiutata e benedetta. Ma ci sono politici posseduti dal demonio, Monsignor Gemma? Non tutti posseduti, no, ma moltissimi maleficiati. Dovrei star qui due ore a spiegarvi la differenza tra maleficio e possessione. Per esempio, noi sono politici importanti che sono colpiti dal maleficio, ci sono? Ma scusi, come? Ma come? Per esempio, un politico importante, chi è? Si possono fare i nomi? No. Non li conosco, perché i politici non sono venuti da me, ma politicanti, quelli piccolini, dei dei comuni e delle regioni. Però ci metta tranquillo. Qual è la formula in latino? Bellissima. Una delle formule in latino che lei usa quando deve guarire, ecco, un posseduto. Volevo proprio questa domanda, tanto per farvi capire come l'esorcismo sia una questione di pochissimi secondi. Ecco, ma ci dica la formula magica. No, scusi, sicuro. Prima quella italiana, per intercessione della Beatissima Vergine Maria, sì, eterna nemica di Satana, ti liberi, ti custodisca, ti conforti, ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vabbè. Amen. D'accordo. Quest'altra è Sante Michael Arcangele, defende nos in prelio contra nequitiam et insidia diavoli esto presidium, impere tilli Deus. Supplices deprecabur, tu che princeps milicis celestis, Satana maliosque spiritus malignos, e a perdizione manimarum per vagantur immundo, in infernum detrude. Ecco, questa è quella latina, quella che dico quasi sempre. È dura. Quindi, monsignor Gemma, io le voglio chiedere... Lei dice, monsignore, che se noi magari facciamo un buon servizio... No, monsignore, chiedo. Abea longere pelle, angeli tui santi, abitent in eo, o Inea, omnes insidia sinimici, abea longere pelle, angeli tui santi, abitent in Inea, reducant eam in sanitatem et sanctitatem et ad pacem. Beh, bellissimo. Ah, beh. Scusi, riducam, capito? Cioè, riducam. Lo so che ci deve lasciare, però le chiedo un'ultimissima cosa di 30 secondi. Se uno viene da lei e dice io sono... Cioè, secondo lei gli omosessuali sono un po' posseduti? No. Chiediamo, professore, signore esorcista. No, è una domanda, cioè chi è omosessuale non è posseduto dal demonio. Ma chi l'ha detto? No, ma è una domanda. No, chiediamo, perché sa, qualcuno magari potrebbe invece dire che l'omosessuale no, è... No, monsignore. Io non l'ho mai detto né si deve dire. Gli omosessuali hanno quella funzione o disfunzione, ma non c'entra niente il demonio. Che potrebbe anche essere, ma si deve verificare caso per caso. Certo. Pax tibi, signore, io la lascio. Mi promette che ci fa un'altra lezione prossimamente? Sicuro, se mi chiamate. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Però... Amen. Ciao a tutti. Grazie, monsignore. Vabbè, però. Sia lodato Gesù Cristo, sempre. Siamo qui 800 24 00 24. Alessandro da Torino. Scusi, buonasera. Signor Cruciani, però. Ma lei... cosa state aspettando? Chiamare le ambulanze. Ma chi, scusi, Alessandro? Ma no, ma 200 ambulanze, una bisacca di ambulanze. Ma perché, scusi? È l'avvocato per questo. No, ma questo. Ma questo, questo intanto è il signor esorcista. Un signor esorcista, come dire, coi coglioni. Come si dice? No, coi coglioni sicuramente. No, ma una bisacca di ambulanze. Questo non si può dire. Ha trasformato sta radio. Mi sembra. Signor Cruciani ha questa capacità poliedrica di trasformare questa radio da radio della Confindustria. Poi ci sono un po' di cose sugli omosessuali. Poi a un certo punto si ritorna a Resurrectio e si torna all'esorcismo con il latino. Una sequenza di cazzate così è allucinante. Vabbè, Alessandro, adesso allora... però è un monsignore. Ma cioè, questo merita... qua c'ha due palle così, no, questo monsignore. Non mi insulti il monsignore. 50 chiamate al giorno, più del 35-70 ne riceve. Allora, cioè, cosa? La compagnia di taxi. Allora, se avesse fatto un ascoltatore un intervento come quello dell'avvocato, l'avreste massacrato. Ma quello è l'avvocato Marra. In Germania lo fanno, esatto, quello che fa l'avvocato. Sì, l'avvocato Marra è il principe, è la sorella del principe. Vabbè, allora. Questo è fuori, Basta. Vabbè, Alessandro, voglio dirvi. Risentiamo un attimo la formula latina. Per sapere quando avreste chiamato l'ambulanza. Beh, non l'abbiamo chiamata. Anna da Torino, buonasera Anna. Buonasera, Anna. Senta, io ho tanto tempo che l'ascolto, intanto volevo fare i miei complimenti perché mi fa sempre svenicare dalle risate. E poi mi riferito all'avvocato Marra, ecco, così si chiama. Ma lui che ne sa della massoneria? Ma che ne so, io la saprà, la conoscerà. In una loggia massonica? Si è mai entrato in una loggia massonica in vita sua? Ha mai visto che cosa fanno i massoni dentro le loro logge? Io sono figlia e nipote di massoni. E vabbè, se le piace così, va benissimo. No, non è che mi piace, però mi sento offesa a sentir dire che i massoni sono pedofili, puttanieri, che vanno con le donne, che sono una potenza di quelle... Io sono figlia e nipote e non mi sento di essere una potenza. Sì, per carità, fra di loro, fratello con fratello, sicuramente sì, non si daranno mai accornate, ma non sono questa gran cosa che vogliono far credere. Vabbè. Capito? Va bene, Anna, lei si è sentita offesa? Che mi sono sentita dica? Offesa, sì, mandi anche una lettera di protesta, mandi quello che ma vuole, no, faccia una protesta proteste, ufficiale. No, anche perché, però mi è venuto da vomitare, veramente, perché, insomma, se uno non sa di quello che parla, se non lo sa, non ne parli. Sì. Va bene, grazie. Perché Luca... secondo me l'avvocato non ha mai sì. visto una loggia in vita sua. Va bene, grazie. Luca da Reggio Emilia, buonasera, Luca. Sì, buonasera. Allora, vada. Volevo chiedere a Parenzi, intanto, se l'esorcista è a pagamento è gratis. Non lo so, come può essere? Sarà gratis, no, come fa a essere a pagamento? Ma credo di averne bisogno, perché io sono in tangenziale a Milano, piove, bloccato. Mia figlia è tornata tardi, ha fatto i compiti, mio figlio ha fatto a cazzotti a calcio, mia moglie grida, vado a casa, gli spacco a testa di tre e quindi forse ne ho bisogno. È la mia teoria, insomma, che non è che lei c'ha il demonio, lei c'ha giramenti di balle, cioè è una roba diversa, come chiunque. O no? Allora sono tranquillo, boh, grazie perché mi ha... No, secondo me non ha il... Siamo come lei, siamo come lei. Siamo come lei, siamo ancora qui, siamo ancora qui. Solo per disturbare. Dante dica e l'arcangelo defende nos in prelio contra nequitiam et insidia diaboli esto presidium impere fili Deus. Supplicet deprecamur, tu che princeps milizie celestis, Satana maliosque spiritus malignos, e a perdizione manivarum per vagantur immundo in infernum detrude. Sentito a un certo punto in infernum, che cosa ha detto dopo? Torna nell'inferno. Questo dici, è, torna negli abissi dell'inferno. Ma non sai tradurre il latino, dai. Come no, come Paolo no. da Milano, buonasera Paolo. Cave Cucciani, tutto bene? Dica. Beh sì, fino a prova contraria sto bene, sì. Mi fa piacere sentire così sereno e felice. Sa cosa ho fatto stasera? Ho chiamato sostenendo che qualcuno prima o poi mi avrebbe messo le mani addosso, perché lei incita con questo sistema di attaccare le persone, aggredire, qualcuno potrebbe prima o poi decidere di aggredirla, no? E allora ho fatto questa affermazione al suo centralino e sono riuscito a verificare che è bastato sostenere questa fesseria per essere ricontattato facilmente. Allora, che cosa vuole dire lei con questa? Cosa vuole insinuare con questa stronzata che sta dicendo? Bravo, bravo, continui così. Insinuo esattamente quello che le ho detto, che la sua trasmissione è una trasmissione fatta semplicemente per fare invitare la gente ad aggredirla. Sì. E consentire a lei di poter continuare a fare una trasmissione di bassissimo livello che sta facendo da anni. Benissimo. Allora, perché lei spreca il suo tempo? Spreca il suo tempo a chiamare? Perché spreca il suo preziosissimo tempo invece di seguire altre favolose e straordinarie trasmissioni? Perché perde il suo tempo a chiamarci? Scusi, sono intelligente, dimostri di essere una persona che non è. Guardi, non devo dimostrarlo a lei, per fortuna non devo dimostrarlo a lei, non si preoccupi. Non si preoccupi, caro Paolo, non si preoccupi. Lei è la rappresentazione di un sistema che non funziona più. Sì, io la rappresentazione di un sistema. Guardi, guardi, se vuole glielo vengo a dire in diretta. Visto che sono al ma non c'è bisogno, ma lei è un poveraccio. Vengo a trovare sul primo piano, così ma lei non viene da nessuna parte perché la bloccano le guardie, per fortuna. Ma no, non è una minaccia, le sto dicendo. Ma è uguale, lei non va da nessuna parte. Lei ha semplicemente paura di ascoltare la realtà. Ma su realtà. Cosa? Io non sto. Ma che cosa devo ascoltare, Paolo? Cosa devo ascoltare? Sulla sua incapacità e sul suo bassissimo livello. Ma di cosa? Livello di che? Ma livello di cosa? Lei è un giornalista di bassissimo livello. Sì, vabbè, è d'accordo, questa è la sua opinione, pazienza, Paolo. No, ma io, guardi, non è la mia opinione, è l'opinione di tante persone che l'ascoltano. Ho capito. Che hanno visto la sua trasmissione passare da un livello medio-alto a un livello bassissimo. Benissimo. Questo, quindi, allora, continui così. Ma perché continua a chiamare? Perché chiama? No, non ho capito, perché chiama? Perché segue? Perché chiama? Perché resta in linea? Perché perde tempo? Non è perdere di tempo, guardi, è semplicemente dimostrare... Ma dimostrare che lei non dimostra nulla! Lei non dimostra nulla! Lei semplicemente, il suo obiettivo è fare polemiche dalla mattina alla sera, trovare persone come il sottoscritto in questo momento che le stanno dando questa peggio per lei, appunto, che le stanno dando questa opportunità. Benissimo, grazie. Di fare polemiche e trasmettere queste polemiche a livello nazionale. Cos'è che le dà fastidio? Cos'è che le dà fastidio, Paolo? Che a me mi pagano per fare polemiche. Mi pagano e invece lei no. Che lavoro fa lei, Paolo? Io mi vergogno per lei, io faccio l'ingegnere, mi vergogno l'ingegnere, per lei. Benissimo, lei probabilmente si è fatto un mazzo così. Si è fatto un mazzo così, ma e io invece no, ha capito? E io invece no. La differenza tra me e lei è che lei è un giornalista di bassissimo livello. Sì. Io faccio il mio lavoro con passione e quello che guadagno me lo guadagno sudando dalla mattina alla sera. E io invece senza ricorrere a questi mezzucci che lei fa. Sì, lei personalmente, lei rimane a sole 24 ore a lavorare semplicemente perché c'è un sistema pubblicitario che fa uso della sua trasmissione per partito godere di un delirio. Questo qua è partito con delirio. Questo. C'è il demonio dentro. C'è Cruciani. Il demonio. No, guardi, il demonio è il club Bilderberg che mi fa lavorare. Il club Bilderberg che mi fa lavorare. Tutti e due siete vergognosi, veramente vergognosi. Beh, facciamo ridere, siamo vergognosi, dipende. Se uno fa ridere non è vergognoso, però se fa ridere, fa ridere è una cosa. Le ho il caffè quando la vedo, siete vergognosi. Ma perché perde tempo? Lei che fa l'ingegnere, perché perde tempo? Perché si diverte, perché si diverte. Ma io mi diverto a sentire la sua trasmissione, a vedere come lei è passato per una scelta proprio strategica che lei ha fatto. Ma che gliene frega lei? Ma che gliene frega lei? Da fare una trasmissione. Ma perché non si fa gli affari suoi? Ma pensi agli ingegneri. Ma pensi agli ingegneri. Il fatto che lei mi trattenga ulteriormente al telefono è la dimostrazione che io sto dicendo la verità. Lei usa queste telefonate, come quella che sto facendo io, per avere ascolti ulteriori. E a me fa piacere che questo qua ha scoperto, ma questo qua è altissimo livello. Questo ha scoperto l'acqua calda. Questo è probabile. Questo è un genio, no? Questo è un professore, un ingegnere. È lei quanto ha studiato per dire queste stronzate? Quanti anni di ingegneria ha fatto per dire queste puttanate qua, queste obietà, queste obietà colossali? Le aggiungo anche un'altra cosa, così capisce il suo livello mediocre. Sì. Il linguaggio che lei utilizza per una persona come me che non si scandalizza sta diventando insopportabile. Lei non fa altro che usare termini impropri, parolacce che sono un continuo fastidio per chi l'ascolta. Lei si fa l'interprete di quante persone? Lei è interprete di quante persone? Scusi, a imparare a utilizzare il linguaggio italiano in maniera corretta. Non faccia uso di improperi, parolacce inutili che servono a poco, dimostrano quanto lei è di basso livello. Grazie professore, grazie maestro. Buon provvedimento dottore. Grazie maestro, professore mi sta insegnando molte cose nella vita e ne ho bisogno. Luca Livorno. Ciao Cruciani. Ciao caro, come stai? Stasera voglio bene, sto benissimo. Stasera volevo spezzare una lancia in favore di Ferenzo. Aia. Non sono quasi mai d'accordo con lui, ma le risposte che ha dato a Marre, a quello lì della Rosa Nera lì, quel mezzo finocchio lì che diceva... No, ma perché? Ah, no, poveraccio. Ma si converta. Stasera sei stato sublime. No, vado a vincere, lo so, un Grammy. Che ma dica qualcosa a quello che ha chiamato, all'ingegnere che ha chiamato adesso, no, Paolo da Milano. Capisce una sega, quello... Che cazzo ci fa uno 20 minuti al telefono per dirti che non ti garba? Gira canale, no? Io sono qua in sosta, sul camion, c'è 50.000 stazioni. Mettere una che ti piace e vaffanculo. Che cazzo rompi coglione alla gente? Cioè, se non ti garba quello che ti dice è finita lì, no? Ma lei è il numero uno! Lei è il numero uno! Voglio chiudere con Luca. Grazie, a domani 18:30. Un abbraccio, Luca da Livorno. Che diavolo di mestiere fa lei, Luca? Camionista! I camionisti, li adoro! A domani 18:30. Per intercessione della Beatissima Vergine Maria, eterna nemica di Satana, ti liberi, ti custodisca, ti conforti, ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito.